a fronte di una richiesta di firmare il nostro referendum siamo stati in difficoltà nella disponibilità dei tavoli da offrire, perché le italiane e gli italiani in tutto il territorio nazionale, cioè veramente da Siracusa a Gorizia, volevano firmare questi benedetti referendum perché si erano accorti che questa legge toccava alcune libertà date per acquisite da un po' di tempo e perché soprattutto creava dei problemi grossi alla ricerca scientifica in generale, a tutte quelle cure che possono aiutare a far nascere un bambino piuttosto che combattere una malattia ereditaria. Quindi all'inizio avevamo proprio questo problema, che in realtà noi eravamo partiti un po' più morbidi, e c'è stata una richiesta invece incredibile di tavoli perché tutti quanti volevano firmare. Questa cosa ci ha creato non pochi problemi in realtà. La raccolta si è sviluppata su tutti e cinque i quesiti, perché per un accordo politico tra chiaramente tutte le forze politiche, sindacali, le associazioni che sono coordinate nel Comitato Nazionale, si è deciso di procedere insieme su tutti e cinque i quesiti referendari, quindi sul primo quesito totalmente abrogativo e sui quattro parzialmente abrogativi. Per dirla con Rita Levi Montalcini, il primo vuole abrogarlo tutto, gli altri quattro vogliono perlomeno abrogare le parti più oscurantiste, e cito proprio il nostro Nobel. Il traguardo non è stato ancora raggiunto, ci siamo vicini, lo vediamo, è lì, noi siamo lì a pochi metri, e quindi si tratta di fare come gli atleti più bravi il colpo di reni decisivo, no, per tagliare il traguardo per primo. Quindi la raccolta continua, in particolare noi abbiamo indirizzato i comitati locali, le forze politiche e sindacali impegnate, poi i cittadini, le cittadine, le associazioni, tutti quelli che hanno messo su i tavoli di raccolta, di continuare a raccogliere le firme dei residenti del loro comune, di modo che i nostri raccoglitori possano poi facilmente certificare le firme. Sono tecnicismi, però sono fondamentali, perché i moduli delle firme chiaramente vanno vidimati e poi le firme vanno raccolte da un intervento di un autenticatore, quindi un consigliere comunale, provinciale, ma quello che conta è che a Roma arrivino corredati della certificazione elettorale, che come sai è quella che poi stabilisce la validità della firma. Senza certificazione elettorale diventa un problema, e purtroppo noi all'inizio l'abbiamo richiesta anche da Roma, i moduli che sono arrivati qui senza, sprovvisti di questa certificazione. Ora però il tempo non c'è più, e quindi la raccolta abbiamo deciso che continua soltanto per i cittadini residenti, di modo che chi raccoglie queste firme può provvedere per la certificazione. L'obiettivo è vicino, è davvero vicino. Se si lavora bene questi ultimi 3-4 giorni con gli residenti, insomma, non dovremmo avere problemi.